30 minuti in cronaca di Gigi Donelli. Flop di presenze sulla neve a Pasquetta, penalizzati dall'annuncio del brutto tempo, la rabbia degli operatori, crisi economiche e previsioni meteo errate hanno determinato un'affluenza addirittura inferiore alla metà di quella che si registrava in una normale domenica. Di turisti se ne sono visti pochi anche in Emilia e in Val d'Aosta. Gli albergatori accusano proprio quelle previsioni poco incoraggianti. Il Codacons stima una perdita di 10 milioni di euro. Ancora buonasera e benvenuti dunque a 30 minuti in cronaca, il programma che si prende qualche minuto per riflettere sulle notizie che attraversano veloci il nostro orizzonte informativo. Previsioni sbagliate, milioni di danni. L'avete sentito, albergatori contro meteorologi, le previsioni sbagliano, i turisti in fuga. Insomma, questi sono i titoli dei giornali, delle agenzie che abbiamo trovato subito dopo la Pasqua. In realtà sono ricorrenti, si potrebbe dire, come le stagioni. L'abbiamo visto nel 2004, ci risiamo nel 2009. Allora, cosa c'è di vero? Sbagliano i meteorologi, i mezzi di informazione, i turisti, gli albergatori? Benvenuto intanto a Luca Mercalli, che conoscete come meteorologo televisivo con Fabio Fazio, ma che è presidente della Società Meteorologica Italiana, ha fondato e dirige Nimbus, che trovate facile facile su nimbus.it. Allora, ancora buonasera. Buonasera a tutti voi. Allora, per quanto riguarda i meteorologi, sbagliano e quanto? Ma certo, i meteorologi sbagliano come qualsiasi altro essere umano, non c'è nessuno che sia perfetto. Possiamo dire che però oggi i meteorologi non hanno mai sbagliato così poco nella storia della meteorologia. E questo non è opinabile? No, assolutamente, perché la meteorologia nasce circa 150 anni fa e fa assolutamente quello che può, osserva i dati, li trasmette con il telegrafo e fa delle previsioni che possiamo dire hanno solo un valore decorativo. Il valore decorativo rimane decisamente fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando finalmente con lo sforzo bellico e la necessità delle previsioni per l'aeronautica si arriva veramente a dare i primi risultati tangibili. Ricordiamo che lo sbarco in Normandia viene rimandato a causa della previsione meteorologica che non dava una situazione favorevole, quindi un evento assolutamente fondamentale per il primo utilizzo pratico della meteorologia. Poi arriviamo al primo calcolatore elettronico proprio a seguito degli eventi bellici disponibile negli Stati Uniti nei primissimi anni 50, e proprio nel 1950 nasce la prima previsione meteorologica numerica ad opera di grandi geni della matematica come von Neumann, come John Charney, ed ecco che arriviamo oggi a noi con i supercalcolatori a parallelismo massivo, che sono delle bestie gigantesche in grado di fare miliardi di operazioni al secondo, e sono quelli che ci regalano oggi la possibilità, direi unica nella nostra storia, di poter prevedere il futuro con un margine di attendibilità anche del 95%. Ecco, la meteorologia dunque assolutamente legata, vincolata a quello che è lo sviluppo tecnologico, ma su questo naturalmente ci torniamo tra un momento. Good morning and welcome to Morning Report on June Thursday the 4th. Here are the top stories at AccuWeather.com. The search for wreckage continues for flight 447. And the expert meteorologists here at AccuWeather are looking at the weather conditions. Bene, state sentendo quella che è AccuWeather, uno dei più popolari e diffusi sistemi di fatto informativi sulle previsioni meteorologiche, naturalmente, dico naturalmente perché l'avete che colto, americano. Ebbene, solo in questo bollettino, il bollettino registrato appunto poche ore fa, si parla di verifica delle condizioni delle zone dell'oceano dove continua la ricerca dei rottami del volo AF447 precipitato appunto nell'Atlantico in volo tra Rio e Parigi. Si approfondisce il fatto che il Texas è sotto la minaccia delle fiamme a causa del caldo, che la capitale rumena Bucarest è stata colpita da una violenta tempesta, ma anche che proseguono al torneo di tennis di Parigi del Roland Garros le sfide nonostante qualche sospensione causata dalla pioggia. Insomma, Mercalli, il tavolo è veramente globale, non si esclude nulla e si deve considerare tutto. Infatti la previsione meteorologica migliora via via negli ultimi 15 anni proprio grazie alle telecomunicazioni e ai satelliti. Quando si fa previsione meteorologica dobbiamo considerare il movimento dell'aria sull'intero globo, quindi oggi l'osservazione è globale è anche l'elaborazione dei dati e globale è la previsione. Si può dire che la previsione nasce in una decina di punti nevralgici della scienza meteorologica mondiale, laddove tutti i dati confluiscono e laddove esce anche il modello di previsione meteorologica per tutta la circolazione dell'aria su tutto il pianeta. Poi ognuno sceglie il pezzettino di mondo che gli interessa per fare il bollettino meteorologico che ognuno di noi utilizza. Ecco, il pezzettino di mondo, questo probabilmente è uno degli elementi più complessi del vostro mestiere, nel senso che su una spiaggia, guardando magari all'orizzonte, persino uno alla detta ai lavori può rendersi conto se un fronte nuvoloso gli sta arrivando contro. Dopodiché, in un sistema complesso, peraltro quello italiano è fantastico da questo punto di vista, fatto di valli, vallette, noi che lavoriamo in radio ce ne rendiamo perfettamente conto per quanto riguarda l'emissione di un segnale. Quindi, perché è più semplice coprire con un solo ripetitore un pezzo di Canada che non un paesino italiano? Immagino che nel fronte meteorologico sia abbastanza simile. E così le montagne, i mari interagiscono profondamente sul movimento e sui risultati poi a terra di un sistema meteorologico, ma non è che questo impedisca di fare buone previsioni in Italia, semplicemente ci vuole un diverso approccio nell'osservazione ed ecco anche nella diffusione dei risultati. E forse qui arriva il secondo problema della meteorologia. Meteorologia è una scienza che ha un elevato, direi, valore sociale, e proprio per questo comunica con tantissime persone. Bisogna avere quindi una efficace modalità di diffusione delle informazioni a livello locale o a livello più ampio. Quando parliamo per esempio in televisione, è ovvio che in 2-3 minuti non si può fare proprio l'elenco di tutte queste vallette, mentre se si fa una previsione regionale o provinciale con un bel bollettino su internet lungo 3 pagine da leggere, cosa che forse alle persone oggi non piace perché si vuole tutto subito, ma quando si leggono 3 pagine di previsione in una zona di montagna si riesce a capire questa complessità, questa raffinatezza e forse anche a utilizzare meglio l'informazione dei meteorologi. Lei ha parlato dell'elemento sociale che è assolutamente fondamentale, non a caso siamo partiti dal mondo dei turisti e degli albergatori, ovviamente ci sono 1000 mondi che convivono, quello che per il turista è una iattura, quindi una pioggia sulla spiaggia, per l'agricoltore anzi è atteso se non è eccessivo e così via. Nel suo libro Filosofia delle nuvole, che è un bel racconto, devo dire, della storia della meteorologia, ma anche di alcuni spunti proprio sociali di come è trasformata la percezione del tempo. Lei cita tra i tanti San Francesco e dice: Laudato si, mi Signore, lo dice naturalmente il cantico dei cantici, che tanti di noi hanno cantato anche nello scautismo, in cose varie. Laudato si, mi Signore, per frate vento, et per aere, et nubilo, et sereno, e onne tempo. Insomma, onne tempo oggi non è più tollerato. Non è più tollerato perché abbiamo una vita che forse è sempre più staccata dall'ambiente esterno, tendiamo a vivere sempre di più in ambiti artificializzati, quindi la casa, l'automobile, il supermercato, l'ufficio, insomma anche l'ascensore ormai deve avere il suo climatizzatore. E forse anche perché buona parte dei mestieri oggi non devono più fare i conti, soprattutto nelle grandi aree urbane, con lo scorrere di questo onne tempo. Vorremmo sempre il tempo che piace a noi, cioè quello sabato domenica soleggiato per andare a goderci il weekend e poi piova pure dal lunedì al venerdì. In realtà forse il significato del cantico è quello che tutti i tempi sono belli. Ovvio ci sono poi gli eccessi che creano problemi e sono questi che poi la meteorologia cerca soprattutto di prevedere, perché sono quelli che una previsione giusta in caso di alluvione o di un temporale molto forte può salvare una vita. Le nuvole che corrono, lo spettacolo, che meraviglia vederle in montagna al formarsi di un temporale, è tutto così forte, così emozionante, però appunto, come ci raccontava Luca Mercalli, in realtà nella nostra vita quotidiana forse abbiamo altre esigenze, la meteorologia si presta, abbiamo appreso anche causa del miglioramento formidabile che ha fatto negli anni a essere criticata perché si entra sempre di più nel dettaglio. E poi ci sono i miti o quelli che riteniamo tali. Un grande classico è: non ci sono più le mezze stagioni, oppure l'abbiamo sentito quante volte, abbiamo la sensazione che sia bello durante tutta la settimana e proprio nel weekend arrivi il tempo brutto, quello che non vorremmo. Allora, Mercalli, cominciamo da una domanda come dire, ufficiale. Ci sono ancora le mezze stagioni? Insomma, se lo chiedeva già Leopardi, credo che sia la domanda più gettonata della mia vita. Devo aver dato questa risposta alla noia, penso, centinaia e centinaia di volte. Ancora una. Ancora una, ma le mezze stagioni. In un paese come l'Italia e come il bacino del Mediterraneo, dove ci sono il cosiddetto clima temperato, siamo noi che abbiamo inventato le mezze stagioni. Per esempio, i tropici non esistono, non esiste il concetto di stagionalità, se non la stagione delle piogge o quella invece un po' più asciutta. Quando arriviamo via via verso nord, attraverso le due grandi stagioni classiche che sono l'inverno e l'estate, ci sono queste sfumature, queste transizioni che noi abbiamo battezzato primavera ed autunno. Sono delle transizioni che, proprio il fatto che già ne parli Leopardi, sono bizzarre. Quindi c'è l'anno in cui l'autunno può essere più simile a un'estate o già un anticipo d'inverno, e lo stesso vale per la primavera. Io oggi direi, e lo dico spesso, non ci sono più le stesse stagioni, non le mezze stagioni. Le mezze stagioni sono sempre esistite con le loro caratteristiche fluttuanti anno dopo anno. Oggi semplicemente abbiamo stagioni che sono diverse. Il fatto, per esempio, che faccia più caldo, che la temperatura nell'ultimo secolo sia aumentata di un buon grado su tutta la zona continentale, fa sì che la nostra estate non è quella dei nostri nonni, è un'estate più rovente, più calda, più lunga, e lo stesso vale per l'inverno. Abbiamo degli inverni molto più dolci, molto più miti, che i nostri bisnonni avrebbero giudicato delle primavere. Ecco, torniamo subito a parlare di meteorologia. Prima sentiamo insieme come vanno invece le cose sulle strade d'Italia. 30 minuti in cronaca. Rieccoci dunque in questa seconda parte di 30 minuti in cronaca. Lo ricordo, il nostro ospite questa sera è Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana, fondatore e direttore di Nimbus. Parliamo di tempo, parliamo dei nostri desideri sul tempo meteorologico, ma anche di quelle che sono i cambiamenti reali che sono avvenuti nel corso degli anni. Abbiamo visto alcuni aspetti, ne vorrei toccare un altro importante, che è quello del valore economico delle previsioni. Un dato che ho sotto gli occhi, leggo: la relazione tra domanda elettrica e temperatura è di tipo parabolico, il minimo è in corrispondenza dei 20 gradi circa. Cioè, questo vuol dire che intorno ai 20 gradi il nostro sistema consuma meno rispetto alle temperature più basse, che evidentemente impongono di scaldarci, diciamo, e a quelle più alte. Insomma, tutto questo però accade pochi momenti nell'anno, Mercalli. Sì, ma l'esempio dell'utilizzo della informazione meteorologica per la gestione del sistema elettrico è un classico. I gestori delle reti elettriche, in base alle previsioni meteorologiche, sanno già dimensionare la produzione del giorno dopo, anche addirittura con una scala oraria, quindi sapere quali sarà anche il momento della giornata in cui ci sarà maggior richiesta. Ora che ci avviamo nelle giornate calde d'estate, sarà proprio la previsione di temperatura massima a far pianificare la produzione elettrica in relazione all'uso massiccio dei condizionatori d'aria, e lo stesso vale d'inverno quando fa molto freddo. Ma questo è solo un esempio. Le previsioni meteorologiche, l'abbiamo sentito prima, sono utili per il bollettino del traffico delle strade. Le autostrade pianificano anche in questo caso gli interventi di manutenzione piuttosto che la segnaletica in base al tipo di tempo atteso, una pioggia prolungata, per non dire addirittura dei nubifragi che possono, o delle nevicate che possono consigliare la chiusura stessa del tratto di strada, e così via. Ci sono decine e decine di impieghi, dall'agricoltura fino all'aviazione, in cui la meteorologia è uno strumento di lavoro, non di divertimento. Ebbene, oggi si calcola che la previsione meteorologica renda circa 20 volte l'investimento che viene fatto per far funzionare il complesso sistema di osservazione e di previsione. Un euro investito in meteorologia rende almeno 20 volte. Il fatto è che la resa non è diretta, cioè non è che torna in tasca ai meteorologi, è una resa che viene spalmata sull'intera società. Ecco, in Italia si investe sulla meteorologia? Pochissimo. L'Italia è un paese particolare perché ha una storia meteorologica complicata, esattamente come la sua storia politica. Io infatti in quel libro ho intitolato un capitolo La meteorologia dei Granducati. Noi abbiamo tanti servizi meteorologici in Italia, e il che rende questo anche un servizio positivo in certi casi, perché si sa, la biodiversità è sempre un valore, quindi avere tanti servizi locali, può in certi casi migliorare la qualità della previsione. I servizi locali sono gestiti in particolare dalle regioni, dalle amministrazioni regionali o provinciali, e poi abbiamo dei servizi nazionali, classica quella tutti nota dell'aeronautica militare. Il problema è nell'informazione. In questo caso l'utente, che non conosce l'universo, la costellazione dei servizi meteorologici, talvolta può cadere nella rete di finire nel peggiore, cioè magari di un servizio commerciale, nemmeno italiano, che oggi su internet è facilissimo rintracciare. Certo, una volta c'era il colonnello Bernacca, noi in qualche modo pendevamo dalle sue labbra. Ora la scelta è molto ampia, ma la scelta è ampia, e come tutte le cose c'è del buono e del meno buono, e quindi questo può portare a una grande confusione nella scelta delle informazioni. Come si riconosce il DOC in questo caso, in questo settore? Il DOC, direi, in Italia si riconosce intanto dagli enti preposti, quindi quando parliamo di una bella previsione per andare a fare un'escursione nelle Dolomiti, io consiglio si vada a vedere il sito web del servizio meteorologico del Veneto piuttosto che del Trentino o dell'Alto Adige. Some big changes in the weather department here. Clipper system is going to zip on down from Canada. Temperatures are going to dip down. Il Canada, gli Stati Uniti del Nord. Questo è un brevissimo estratto da Frozen River, un film che peraltro ha avuto un forte riconoscimento al Sundance Film Festival, un film che non parla di meteorologia ma racconta in realtà come in molte zone del mondo il clima sia determinante proprio per le scelte quotidiane delle persone. Proprio su questo fiume ghiacciato si svolge la vicenda dei protagonisti. Ecco, c'è una ragione, diciamo, culturale specifica per cui nel mondo anglosassone parlare del tempo, affrontare il tema del tempo e metterlo in primo piano anche nei programmi televisivi sia tutto sommato la norma, mentre da noi c'è ancora un atteggiamento molto prudente, con eccezioni che tra cui la sua, direi. Questo non lo so, mi sono sempre domandato se è soltanto un fatto culturale o se è anche un fatto geografico, ovvero se sono questi tipi di clima che in qualche modo hanno stimolato una maggiore e più precoce attenzione. E in fondo la meteorologia per certi versi nasce addirittura in Italia. Ricordiamoci che la meteorologia scientifica nel 600 comincia a svilupparsi in Italia grazie ai grandi inventori italiani degli strumenti meteorologici, un Galileo che concepisce il termometro, un Torricelli col barometro. Senza di loro non ci sarebbe meteorologia, però poi si sposta decisamente nei paesi anglosassoni, dove diventa addirittura una moda. Classico il detto che, insomma, in Inghilterra parlare del tempo, insomma, è un classico come prendere il tè alle 5. Si dice anche, però, almeno quando si parla del tempo non si parla male di qualcuno, che è anche un bel modo per rifugiarsi, per trovare un alibi nel discorso leggero della meteorologia, per non caderne in altri forse più impegnativi. Sta di fatto che oggi la meteorologia anglosassone è sicuramente leader. Le stesse previsioni che usiamo anche noi oggi in Italia, per certi versi, nascono in Inghilterra, perché in Inghilterra c'è uno dei centri meteorologici internazionali più quotati dell'intero pianeta, cioè il centro di previsioni a medio termine, che ha sede a Reading, vicino a Londra, ed è un centro finanziato da un consorzio di paesi, di cui fa parte anche l'Italia. Però la previsione nativa, su cui poi si basano i meteorologi anche locali, ha un punto di produzione che è proprio in Inghilterra. Poi c'è il classico Met Office, un ufficio meteorologico britannico, per non parlare poi degli Stati Uniti e del Canada, dove forse le grandi tempeste di vento e di neve invernali, i tornado nella zona centrale e gli uragani nel Golfo del Messico forse hanno reso gli americani particolarmente attenti alla previsione meteorologica. Ecco, con il passare degli anni le previsioni e la conoscenza della meteorologia si fa via via più importante. Le città, le metropoli, la concentrazione di persone nei luoghi del mondo è più forte, e l'impatto di un rovescio, di un fenomeno significativo, può essere devastante. La meteorologia, a suo avviso, ha raggiunto, diciamo, il tetto delle sue possibilità, o c'è ancora strada per migliorare? Direi che, come sempre, in campo scientifico c'è strada per migliorare. Questa strada però si fa sempre più erta, proprio come un risultato sportivo, direi. Ormai sappiamo tutti che nelle grandi competizioni di qualsiasi sport quelli che 50 anni fa erano i miglioramenti di anno in anno che si misuravano in minuti, oggi si misurano in centesimi di secondo. Non c'è più l'atleta che arriva primo staccando l'altro di un quarto d'ora, c'è l'atleta che arriva primo veramente sul filo dei centesimi di secondo. E la meteorologia è un po' così. Dopo i grandi risultati, grazie all'introduzione del computer e ai grandi mezzi a disposizione dal dopoguerra a oggi, le conquiste che via via si fanno sono sempre più limitate, a meno che non ci sia poi il genio che rivoluziona completamente l'attuale comprensione delle leggi fisiche che governano l'atmosfera, ma per il momento dobbiamo accontentarci di fare piccoli passettini che comunque oggi ci permettono di prevedere il tempo fino a circa 5-7 giorni nei casi migliori, con una qualità che mai era stata raggiunta nell'intera nostra storia. E oggi possiamo veramente pianificare la nostra vita con la previsione meteorologica, e questo, come ha detto lei, è forse proprio il motivo per cui ci sono anche più critiche, perché fino a 20 anni fa le previsioni meteorologiche erano un po' come l'oroscopo, si mettevano per riempire un pezzo di giornali che doveva esserci, e si guardavano distrattamente facendoci pure tante barzellette dicendo ma tanto sbagliano sempre. Oggi il fatto che invece tanta gente le usi vuol dire che funzionano, e le poche volte in cui sbagliano, come sbagliano tutte le cose che noi facciamo, allora si attirano forse più critiche di quante fosse l'indifferenza di 20 anni fa. Insomma, non si scherza col meteo. In una battuta ho letto nel libro, appunto, che abbiamo citato prima, che su 52 settimane il vostro, diciamo, margine di errore è calcolato in una settimana l'anno, cioè il tempo complessivo, quindi 7 giorni. Ma sì, o poco di più, perché quando parliamo di un 5% di errori, 15, e non era così, un 18 giorni di errore su un anno, ma e non era così fino a pochi anni fa. No, era molto peggio, sì, era percentuale molto più basso di risultati positivi. Io ringrazio molto Luca Mercalli, che è stato con noi questa sera, lo ricordo, presidente della Società Meteorologica Italiana. Ringrazio Carmelo Lauricella, che è qui in regia. Vi ricordo che questa, come tutte le altre trasmissioni di Radio 24, le potete ritrovare su radio24.it, e direi che abbiamo concluso. Naturalmente non mi resta che augurarvi un ottimo weekend a tutti voi. A proposito, Mercalli, e le previsioni per questo weekend?